Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. Dunque, oggi l'immigrazione ancora in primo piano, ormai ci sono delle scadenze, tra alla fine del mese ci sarà un grosso appuntamento di sintesi di fatto di quello che ormai viene chiamato il Migration Compact, cioè il progetto sostenuto dall'Italia per ridisegnare i meccanismi di controllo e di condivisione di quello che è il grande flusso della migrazione. Allora, i passi proseguono, anche se magari sono apparentemente in ordine sparso. Uno importante è stato fatto dalle Europarlamento quando ha approvato il voto, di fatto, quando ha approvato il progetto di creazione di una guardia di frontiera europea. Sentiamo. È un accordo importante che nasce sull'emergenza di salvare Schengen e non dimentica di tutelare i diritti dei singoli. Parla così l'europarlamentare PD Cécile Kyenge del primo via libera da parte dell'Europarlamento alla formazione di una guardia costiera e di frontiera. Un primo e tanto passo proprio per salvare Schengen. Quindi se c'è stato un percorso è proprio quello di cominciare a dire riconosciamo le frontiere esterne come frontiere dell'Unione, ma anche cercare di gestirle in un modo responsabile, quindi in un modo solidale con tutti i 28 Stati. Salvare Schengen ma anche smantellare i muri interni all'Unione. Questo nuovo corpo prenderà il posto di Frontex. La nuova agenzia avrà anche l'assistenza degli Stati membri per i rimpatri dei migrati irregolari. I paesi che non hanno frontiere esterne dovranno fornire ciascuno il 3% del personale, mentre quelli che sono già in prima linea dovranno fornirne solo il 2%. La bozza del regolamento è stata approvata con 40 voti favorevoli, 10 contrari e 5 astensioni. Appoggiata anche la proposta della Commissione europea per un documento di viaggio standard che identifichi i migranti irregolari che devono essere rimpatriati e che spesso sono sprovvisti di passaporto. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Da una parte dunque c'è l'idea che ormai emerge con forza di governare quello che è questo grande fenomeno della migrazione contemporanea. Naturalmente le modalità possono essere diverse. Su questo fronte ha parlato questa mattina il ministro degli esteri tedesco Frank-Walter Steinmeier per dire che un accordo UE-Libia sul modello di quello necessario concluso con la Turchia è al momento difficile. Ha spiegato in Libia c'è un governo di unità nazionale che ha un'influenza limitata sul territorio e c'è prima bisogno di stabilizzare l'area. Sempre su questo tipo di accordi si è espresso anche il commissario ai diritti umani del Consiglio d'Europa Nils Muciniek, che di fatto non approva l'idea di un Migration Compact che prenda spunto dall'accordo UE-Turchia. L'ha intervistato per noi Valentina Furlanetto. I think that the EU-Turkey deal is very problematic from a human rights perspective and should not be. Penso che l'accordo tra Unione Europea e Turchia sia molto problematico da una prospettiva di diritti umani e che per questo non andrebbe replicato. È chiaro che quello di cui abbiamo bisogno è che le persone arrivino senza correre rischi. Il problema dei ricollocamenti ha a che vedere con il fatto che al momento non c'è alcun tipo di penalizzazione per i paesi che non partecipano. Nel lungo termine abbiamo due problemi a cui guardare. Il primo è che i migranti hanno la tendenza a raggiungere i loro parenti nei paesi in cui questi parenti già sono e questo nel meccanismo dei ricollocamenti va tenuto presente, non può essere ignorato. Il secondo punto riguarda proprio il report che abbiamo pubblicato oggi. Chiaramente, nei diversi paesi ci sono programmi diversi di lingua, di formazione professionale e di strumenti di integrazione e i migranti tendono a voler andare dove ci sono più opportunità. Se questi programmi fossero più omogenei nei diversi paesi non ci sarebbero questi problemi. Ecco dunque un quadro di maggiore omogeneità per gestire un problema così complesso. Un'ultima notizia invece ci racconta di scontri, diciamo, verbali tra polacchi, in particolare il leader del partito al governo in Polonia, Kaczynski, ha dichiarato che il suo esecutivo non è certo di voler sostenere Tusk per un secondo mandato alla guida del Consiglio europeo. Kaczynski ha accusato Tusk, l'esecutivo dell'Unione, di fatto di non rispettare la sovranità della Polonia. Episodi legati all'accoglienza, ad aver ricevuto alcuni esponenti dell'opposizione polacca a Bruxelles, quindi in delegazioni ufficiali, che evidentemente fanno innervosire parecchio il governo, alle prese, come sapete, da un vero e proprio braccio di ferro sul fronte dei diritti e della libertà di stampa ormai da alcuni mesi. Per oggi dunque è tutto, aggiornamento con Europa 24 domani alle 14. Un saluto. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.